tanta tendenza a pubblicizzare tutto, a stare fuori, ma qui vi pongo una domanda, diciamo, con la quale vorrei che rifletteste. Secondo voi è perché certi argomenti non sono più intimi e personali, o siamo noi che abbiamo perso il gusto all'intimità? Perché sentiamo dentro di noi un vuoto esistenziale che riusciamo a colmare solo con il consenso altrui, con l'essere visti, con l'aprire quello che magari appunto non conviene che apriamo agli altri. La solitudine ci fa paura, ci mette inquietudine, o al contrario la ricerchiamo per riflettere e dare un senso alla nostra vita, per cercare di raddrizzare la rotta? La nostra casa è una casa che custodisce e coltiva il silenzio, o è una casa in cui la TV fa da padrona, in cui il computer fa da padrone, in cui ognuno dei membri che la compongono sta per sé e più per tutti? In casa si coltiva, in una casa si può coltivare o si può anche distruggere l'intimità. Non a caso il Grande Fratello, che ha raggiunto forse la 14ª edizione, che ha proprio l'obiettivo di distruggere, no? Di privare chi vuole entrare in quella casa, chi vuole farsi vedere dall'Italia intera, ha proprio l'obiettivo di privare queste persone della loro intimità, si è ambientato in una casa. Una casa fredda, una casa sicuramente che sembra più un mondo, diciamo, una casa da rivista, perfetta, bellissima, ma almeno io sto facendo riferimento, poi non vorrei che stia dicendo delle corbellerie, perché ultimamente non l'ho visto, però mi ricordo la primissima edizione, quando proprio lo vidi, cioè c'era questa casa, cioè proprio bellissima, perfetta, super arredata, super moderna, ma di una freddezza incredibile. Proprio perché appunto quando c'è casa, cioè dentro una casa uno si mette a nudo, no? Si spoglia di quello, cioè diciamo mostra la propria intimità. La crisi della casa è una crisi dell'interiorità. Dicevamo, c'è troppo mondo pubblico, troppa facciata, troppe convenzioni e poco mondo privato. Dobbiamo coltivare l'intimità, diciamo, dicevo prima, appunto ricercandolo, quella solitudine, quel silenzio, per riflettere su quello che siamo, per conoscerci meglio, ripensare a come abbiamo agito e se riteniamo di aver sbagliato, raddrizzando, no? Rettificando il nostro comportamento. Solo coltivando noi stesse possiamo, nelle nostre case, stabilire un ambiente e un clima che stimolano a fare altrettanto. Io penso che se stiamo qua ce l'abbiamo questo desiderio sicuramente. Ma qual è la sfida per noi donne di casa, tra virgolette, oggi? Cioè donne che hanno sulle spalle una casa. Cosa significa oggi per una donna occuparsi della casa? Sicuramente non lo facciamo più come lo facevano le nostre nonne. Prima le case erano viste proprio come focolare, come luogo di aggregazione. C'erano bambini che scorazzavano, i nonni, i vicini. Cioè si stava con le porte aperte, almeno così mi raccontava mia nonna. Oggi invece i bambini vengono scolarizzati il prima possibile, i nonni spesso, per chi ce li ha, sono una grande risorsa, ma anche loro lavorano, comunque hanno una varietà di hobby, tali per cui io, per quando devo chiedere disponibilità a mia madre, mi devo prenotare un mese prima, perché lei c'ha il burraco, il poker, la palestra, cioè veramente una vita, cioè beata lei, spiccatissima. Giustamente è arrivato il momento in cui si può rifare, diciamo, del tempo che ha investito, esatto, per noi. Quindi dicevamo, addirittura con i vicini neanche ci si conosce, ma non sto esagerando. Io l'altra volta parlavo con la mamma di una compagnetta di mie figlie e mi diceva che abitava in una strada a Palermo. Dico, ah sì, dove abita la fidanzata di mio fratello? Allora lei mi dice, che numero abita? Dico, non lo so, si chiama De Luca di cognome. Lei mi dice, no, non mi dire cognomi perché non lo so chi abita nel mio palazzo. Cioè non so proprio chi ci abita, non li vedo, io faccio una vita frenetica, sto sempre fuori, quindi neanche so chi abita nel mio stabile. Chi sceglie di rimanere a casa, in effetti, ed è oggi, sceglie di rimanere da sola. Chi potrebbe prendersi il lusso di non lavorare perché magari economicamente non vuole farlo, perché si sente attratto dal lavoro della casa, alla fine è poco stimolato a farlo, è privo di contatti umani, cioè si sente un po' isolato dal resto del mondo. La tecnologia, tra l'altro, anche un po' svilito quello che era prima, diciamo, una poesia, no? Un rituale. Dico, è chiaramente una grandissima risorsa perché ha ridotto incredibilmente i tempi di attesa del lavoro. Io dico, vai Linda, cerco di personalizzare sempre Linda e la lavatrice, Rosalia e la lavastoviglie, dico, lei le personalizzo, dico, dai, lava Linda. Dico, cioè, a lavare c'è Linda, alle stoviglie, ai piatti ci pensa la lavastoviglie, a pulire, cioè, a spazzare l'aspirapolvere, a cucinare spesso ci pensa il signor Findus con i suoi salti in padella. Diciamo, belli e pronti, dico, quando è, allora tiro fuori. La tecnologia ci ha, diciamo, sicuramente il lavoro della casa lo ha semplificato in una maniera impressionante, per fortuna, diciamo, grazie a Dio, però c'è un rischio in tutto questo, c'è il rischio di disumanizzarlo, cioè di vedere le cose della casa, cioè i compiti da portare avanti in casa, in maniera impersonale, in maniera fredda, cioè rischiamo poi di gestire la casa, come delle, diciamo, manager. Come si fa alla stregua di un'azienda, non pensando più a chi vive la casa, a chi la abita, alle persone per cui stiamo facendo quello che stiamo facendo. Volevo leggervi, brevissimamente l'introduzione di questo paragrafo, di questo libro, appunto, che ho citato all'inizio, questo Casalinga in carriera, simpaticissimo, in cui c'è lei col tagliere sulla lavatrice. Mi sento molto io perché in effetti in certe circostanze mi ritrovo molto in questa donna di copertina, in cui appunto l'autrice Elisa Tumbiolo, che tra l'altro è catanese, di nuovo, forse molte di voi la No, Elisa conoscono. Tumbiolo dice fa lui. Ah, È Mazzarese addirittura, però ha vissuto a Catania, mi dicevano, no, no, non c'entra niente, niente. Elisa Ah, va Tumbiolo. bene, Romana. ok, brava, segniamo un bello titolo. Va bene, Elisa Tumbiolo comunque diceva, appunto, questo paragrafo dice, è una donna che ama, veramente in maniera proprio poetica, lirica, quando spolvera la sua casa non sta semplicemente togliendo la polvere, ma accarezza i suoi mobili. Quando lava i pavimenti ritrova le impronte lasciate dai suoi cari. Nel preparare le pietanze non sta semplicemente cucinando, ma dà sostentamento al corpo e all'anima dei suoi. Quando fa il bucato pensa con affetto a quello sporcaccione del figlio che si pulisce la bocca e si asciuga il naso con la manica del maglione, quante volte ci è capitato di trovare il moccolo sulla manica, al marito che mette a lavare le camicie ancora pulite solo perché gli piace indossarle ben inamidate, per fortuna mio marito non è così, alla figlia che si cambia in continuazione, è così, quei panni sporchi si animano, il ricordo di chi li ha indossati solletica il cuore e per un po' spazza via la fatica. Il profumo del bucato per i tuoi non sarà quello di un detersivo qualsiasi, ma sarà l'odore della loro casa, sarà il tuo odore. La sfida è proprio questa. Chi vive la casa ha bisogno di sentirsi curato e amato attraverso quello che mangia, attraverso quello che indossa e di ritornare dopo una giornata di lavoro, estenuante o di studio a casa in un ambiente pulito e ordinato. Sì, però ordinato da una persona che gli vuole bene, che vuole volergli bene, cioè che attraverso quelle cose gli vuole bene. Essere buone manager della propria casa vuol dire proprio questo, pensare chi la vive, da un lato custodendone e coltivando l'intimità, ma dall'altro appunto aprendola a tutti. E qui andiamo alla seconda parte, diciamo, del titolo di questo intervento. Per costruire un mondo più umano e per mantenere l'alta quota, da qui il titolo anche del convegno, nella rotta della nostra vita familiare, dobbiamo far sì che le persone della nostra famiglia vivano in un ambiente accogliente che li aiuti a rendere armonica la propria personalità. Occorre veramente studiare le persone, ascoltarle molto, con quell'ascolto attivo di cui parlava stamattina Ilenia, con ascoltarle, trovare soluzioni ai loro problemi, sorridere, coccolarle attraverso proprio le cose materiali. Ma se andiamo sempre di fretta, trascurando il dettaglio, se non abbiamo l'occhio vigile, l'orecchio attento e una mente creativa, rischieremo di ridurre la nostra casa in un albergo. Una casa, in cui ci sono cuori che battono, teste che crescono, in cui si è veramente famiglia, in cui si cura l'intimità di ciascuno, non può, non essere aperta all'altro. Curare l'intimità della casa non significa chiuderla, vivere in maniera piccolo borghese, no? Nella tranquillità di chi si fa i fatti suoi, di chi sta in una torre d'avorio e fugge ai problemi altrui, ma piuttosto evitare la superficialità e la frivolezza nelle relazioni. Questo sicuramente richiede uno sforzo per coltivare alcune virtù, la generosità, la laboriosità, la solidarietà, la carità, l'allegria, parlavamo stamattina, ma anche la sobrietà.